sono salvo le tre. Cercherò. Troverai. Mi hanno sempre detto troverai. Però ci sto con me, mi basta. Nessuno mi vede. E allora carezza la solitudine. Che scende, che sale, si sente la marica.